All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. La cena dei regini artistiche vengono ad allietare la nostra cena assieme. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini anche questa settimana. Accomodati, Bach.it, se lo stai guardando, lo stai ascoltando in radio, visita il Bach.it, clicca la cena dei regini per vedere tutte le puntate. Cena chioccio del Bach.it per commentare anche questa puntata di questa settimana. Come hanno fatto? Vittoria detta Vicky ci ha detto: se lei fosse una rockstar, come abbiamo detto settimana scorsa, vorrebbe caramelle a ogni tappa del tour a gusto diverso. Quindi gli organizzatori stiamo a smazzare per trovare le caramelle. Brava, ci piace, un po' sadica, quindi piace, è molto Cena dei Regini. Ci ha scritto anche Cristoforo da Düsseldorf, che è in Germania. Ho cercato su internet, niente scherzo, bellissimo posto tra l'altro, vorrebbe un monster truck per sfuggire ai fan. Perché tu vuoi sfuggire ai fan, vuoi il monster truck, quei macchinoni enormi con le ruote giganti, e tu svicoli così per le vie cittadine, non farla a ragione, no. Però può essere ideale, perché con le buche regine può essere quello che ci vuole. Poi ragazzi, Anna e Claudia, senza saperlo, hanno chiesto la stessa cosa, un sosia di Jared Leto. No, no ragazzi, no. L'angolo delle notizie dal Laos, il nostro vlog, cosa è successo questa settimana, la vita al Laos, perché la vita al Laos è sempre particolare. Quando ci si annoia, forse quando si dorme, e neanche, ragazzi, ad esempio il sabato c'è stato il grandissimo concerto di 17 Friday che sono venuti a suonare, sono stati qua con noi la serata, è stato molto interessante, ho registrato anche una intervistina per la Cena delle Regine, quindi li troveremo ospiti sicuramente nelle prossime puntate. Visite, settimana anche di visite con visitatori che hanno visitato Laos, la Gilda, sono di qua a stare un po' con noi e quindi grande entusiasmo, perché tu vedi sul faccialibro, sul YouTube, vedi questa stanza e dici ma quanto vorrei stare seduto su quel palco, quanto vorrei stare, eh? E poi vieni e vedi che è tutto di cartone, è tutto falso. Anche io mi smontano quando vado via. E invece no, potete venire a visitarla, prenotatevi, cliccate il back.it e veniteci a trovare. Ragazzi, ma tutto questo grazie a una sola istituzione cittadina, perché Reggio è una città immaginaria, ma noi no, noi siamo la Gilda degli Artisti, questa associazione. Puoi gildarti anche tu, che adesso sei inutilmente a casa davanti al computer, apri gildartisti.org, clicca Gildati, compila il form che trovi online, è gratuito, senza impegno, e puoi aiutarci. Ogni nuovo iscritto è una voce in più per il nostro cammino. Ragazzi, questa è una nuova puntata della Cena dei Regini. Noi torniamo da un piccolo spazio musicale a tra poco con la Cena dei Regini. Vai. Serra, Gabriele Serra ci sta annientando questa puntata della Cena dei Regini. Accomodati, dopo aver spento il amplificatore prima. Problemi tecnici. Facciamo due domande con l'ospite di questa sera, Gabriele, che da pochissimo, due domanducce per presentarti, da pochissimo ha iniziato, diciamo, questa carriera musicale, cioè ti stai presentando soprattutto sul web con qualche video che hai fatto su YouTube. Esattamente, ho fatto tre canzoni finora, ho fatto una canzone intitolata Wherever You Will Go, e un'altra, questa, I'm Yours, e poi quella che ho cantato precedentemente, The Messenger. Uh-huh. Per il momento sono tre, aspetto di caricarne altri video. Certo, è bello quando ci si presenta su YouTube facendo un video, giustamente si può comunicare alla gente. Tu hai iniziato da pochissimo, quindi... A suonare ho ricominciato un anno fa, invece per quanto riguarda il canto, questo è il terzo anno che sto studiando canto. Sì, bello. Grazie di esserci Grazie venuto a trovare, ti si impappina anche la lingua, ed è bello comunque dare spazio agli artisti giovani, regini, promettenti. Un applauso. Ragazzi, entriamo nell'angolo delle notizie dalla strada, quelle che anche tu potresti trovare sul web e non lo fai, ma noi te le propiniamo lo stesso per perdere 10 minuti preziosi della tua inutile vita. Commenta la cena che ho c'è nel back.it. Cosa ridi? Lo guardi anche tu il programma? Cena che c'è nel back.it per commentarle, ragazzi. Questa settimana partiamo, c'è un ampio spazio tecnologico, il Giappone ci ha un po' deluso, perché come dicevo questa settimana poche notizie di polli giapponesi che si fidanzano con docce e cose simili, però ragazzi, Google dall'America lancia una scommessa: nel 2020 le auto si guideranno da sole, ragazzi, lo dice Elon Musk, che è questo dirigente di Google. Tu entri in questa macchina, imposti, diciamo, una destinazione, e la macchina, grazie a dei sensori, riesce a guidare senza da sola. Guidare, cioè... Senza guidare. Tu, la macchina diventerà una specie di salotto. Elon, hai già trovato una cliente, Andreina già vuole un prototipo. E pensa che lui dice che ha un figlio abbastanza piccolo, un ragazzino, e dice: magari mio figlio già non avrà più bisogno della patente, perché si siede in macchina, digita e va. Oh, bello! Pensa, già Andreina già è emozionata a questa idea, che comunque senza patente, senza nulla, la macchina ti porta. E non so manco guidare io. E quindi giustamente è una cosa che pensa che rivoluzione, però. Ora può vederle. Incredibile. E voi vi fidereste di una macchina senza guidatore? Guideremo gli accidenti stradali. Evitare l'incidente stradale. Soprattutto alla giovane Africa. Evitiamo tanto il cazzo da qui a reggio, soprattutto qui a reggio, come guida sta la gente. Particolarmente scottato. Perché sai, di tranquillità. Questo... sì, meno di una gente che si insulta. No, dai, cioè, tu come entri in macchina, inizi a fare 2-3 minuti, iniziano le bestemmie, perché c'è quello che cammina al centro, quello che non cammina, capito? Non sarà vero questo qui che fanno. Sì, è vero. C'è già un prototipo di Google, e tra l'altro leggevo oggi che anche la Mercedes ha fatto un suo prototipo di macchina automatica, e quindi funzionerà così. Poi pensavo a Mercedes, infatti c'era questa immagine singolare di un vecchio tram e accanto questo pallottolone della Mercedes, che dentro è un salotto, ovviamente extra lusso, perché comunque loro sono un po' fatti così. Quindi impostare le cose, sperare che a Reggio non caschi dentro una buca con tutta la macchina automatica, che forse ci vuole aggiornamento. No. Cioè, proponiamo già l'espansione. Google Car Reggio Calabria con le schivate. Schivare le cose. E poi per le ragazze, come suggeriva giustamente lui, perché io battute maschiliste non ne faccio mai, il parcheggiatore disautomatico, perché ci mancherebbe quella maniera lì di mettere la macchina così e poi di lamentarsi. Ragazzi, non fate battute maschiliste, basta, andiamo avanti. Tecnologia, un grande addio per una tecnologia che entra, una grande tecnologia che se ne va. Addio ad Internet Explorer. pensa tu. Internet Explorer, questo programmello, questo browser tra i primi che è stato imposto ai computer di mezzo mondo quando era ancora l'internet 1.0, sembra che sia per andare in vacanza, sostituito da quello che si chiama Progetto Spartan, un nuovo browser che sarà distribuito con Windows 10. Quanto siamo felici di questa cosa. Internet Explorer quando si bloccava, quando non caricava, non partiva proprio. Pensa tu. Così. Ci mancherà. Vi mancherà? Perché anche voi usate. Vabbè, prima vediamo il nuovo browser. Come poi. Ammettete, voi usate Explorer. Non gli mancheranno. Tutti lo vi già. E quindi se stai usando Explorer, sei ancora al vecchio blocco e puoi scrivere a chat@back.it per commentare le notizie del blocco precedente. Ma andiamo avanti, ragazzi, la tecnologia si deve aggiornare, si deve darti delle soluzioni. Una, penso che chiunque ha usato un browser è andato a sbirciare in Yahoo Answer, questo grandissimo servizio che ti permette praticamente di porre una domanda all'utenza che poi ti risponde e ti dà delle votazioni in base a quella che è la risposta più azzeccata, più adatta. E OneSware in questo periodo di rilancio del portale è andata a scovare, a filtrare quelle che sono le domande più curiose. Le domande più curiose, la gente è strana, qui è filtrato anche nella lingua italiana. Ad esempio, una domanda che tutti si saranno chiesti: secondo voi, perché la U accentata è vicina al tasto invio? Perché? Perché qua e non altrove? Una delle risposte più votate è stata per farti sbagliare meglio. Effettivamente sì. Perché la U non è così, cioè la U accentata non è così, però è piazzata là, perché? Non si sa. Per farti sbagliare meglio è un'ottima soluzione, ma soprattutto per andare avanti nelle domande più strane, grandissima domanda: come faccio a contattare Berlusconi? E l'ha chiesto una ragazza. Vorrei che questo fosse un mezzo scoop. Può essere una ragazza, ha chiesto come fare a contattare Berlusconi, cosa gli vorrà mai chiedere? Chi lo sa, però voglio dire. Oppure grande anche le domande musicali, ad esempio canzone che fa EO in inglese. EO. Che fa EO in inglese. Oppure avevo letto anche qui: qual è la canzone che fa Shura, Shero, Shura, Go. Non so se manco sei italiano o cinese, dipende. No, ma ha scritto proprio Shura, Shero, Shura, Go, che poi era. Se le preparano la mattina le domande. Si svegliano la mattina. Vedi. Però voglio dire, invece di dire ma Shura, Shero, Shura, Go, la gente evidentemente ha capito perché aveva già una risposta al suo attivo. Quindi, vedi, le domande, ma qual è la domanda che voi... Immaginate di avere questo cervellone davanti, una domanda da porre assolutamente a YouAnswer, o comunque a un cervellone che risponde in maniera degna. Qualcosa che vuoi sapere sull'universo in generale. Una domanda da porre. Ad esempio, c'è vita sugli altri pianeti? Il significato della vita? Il significato della vita, come Pesce 42. Una domanda da fare, una curiosità sull'universo. Poter vivere tranquillamente, tipo dov'è la serenità? Una domanda. Sì, una domanda, aggiusteranno mai la strada ragionabile. Questa, guarda, penso che manderebbe in tilt il sistema. Una domanda da chiedere a questo cervellone gay, ad esempio, Paul McCartney. È lui oppure è il sosia? Cioè, c'è questa leggenda. PID, voglio dire. Insomma, grazie alla tecnologia si può fare questa scorpacciata di intelligenza artificiale, o più o meno grazie agli Amazon. Ragazzi, tecnologia che stavolta dal Giappone, stavolta dai preziosissimi ingegneri di Samsung che hanno inventato la cuccia definitiva. Perché tu, se hai studiato una vita, se entra dalla Samsung, anziché fare quelle cose pazzesche che fanno loro, ti mettono a disegnare la cuccia. Ma attenzione, non è una cuccia normale, è la cuccia della Samsung. Quindi contiene, a parte una specie di galleria d'arte alle pareti, la cuccia permette al cane di avere a sua disposizione un tapis roulant rivestito di erba sintetica. Perché se hai la cuccia della Samsung non puoi mettere il cane in giro così, non lo porti a spasso. Così. Una piscina con idroterapia, che sarebbe il cane proprio raffinatello, perché voglio dire, eh? Un distributore automatico di croccantini, che ragazzi, inserisce. Io anche per suo ficci penserei, perché non devi stare là, c'è il cane che ti digita direttamente. I numeri, dentro. I numeri. Perché c'è, cioè, il cane che ti digita i numeri e esci dicendo il croccantino. Se hai finito i croccantini, ti manda il messaggio su WhatsApp dove che sei. Sono finiti i croccantini. E dà una leccata per inviare. Quindi il cane avrà a sua disposizione di buttare automatici i croccantini. È persino un tablet, il Samsung Tab S, che usa come televisore con contenuti canini. Che non si sa, cioè i contenuti canini cosa sarebbero? You got You dog, tipo, fa vedere questi accoppiamenti di cani, forse il cane si ispira, non lo so. Anche perché, sarò fesso io, mi sembra che il cane non possa vedere le immagini piatte. Quindi, ma ragazzi, guardatela questa cosa, perché secondo me ma pare una fesseria. Però sta fesseria la becchia a 28.000 euro. Che è il tuo cane, voglio sì, dire. Cioè. Quanto vale? Oggetto super tecnologico, grande attesa perché uscirà nel 2015. Il caffè lo fa pure. Come? E invece non fa il caffè. No, però. Perché è solo per il cane, dovrebbe fare il caffè per cani, che però non so cosa verrebbe fuori. Si chiama Dream Dog House, perché giustamente è una casa del cane proprio ideale per fare contenti tutti. Secondo me, una volta che ci spendi 28.000 euro, ci vivi dentro tutto. È un bilocale migliore di tanti posti in cui ho dormito. Quindi andate sul tranquillo. La tecnologia, quando non si può fare a meno della tecnologia, ormai una cosa che sta accompagnando le nostre giornate, le nostre nottate, sono i selfie. Lo fai quando prima di mangiare, lo fai prima di un appuntamento di lavoro, c'è il selfie after sex dopo l'appuntamento galante, c'è questa moda eccetera. Ma ragazzi, c'è una grande moda, grandissima moda, che rischia di prendere piede e viene dall'Arizona. Quest'uomo di nome Isaac Martinez si è fatto un selfie dopo essere stato sparato con un colpo di fucile. Cioè, lui è stato sparato in Arizona, è successo in un ristorante di mesa. L'uomo, non appena è stato portato in ospedale, la sua prima preoccupazione è stata farsi questo selfie, un bel buco qua nella spalla. Ovviamente, è inutile dirlo, il web è impazzito per questo nuovo eroe della rete, e quindi è stato sparato alle spalle e si è fatto questo selfie. È un selfie in un momento estremo. Immagino di non fare per i medici. Metti? Immagino lo farebbero i medici. Sì, c'era lui aperto sul tavolo d'operatore, il medico là, e si fa la cosa. Può essere, secondo me in diversi casi italiani è già successo. Però se lo fanno in Italia si dimenticherebbero il cellulare dentro, perché qualcosa dentro lo lasciano sempre. E quindi due fotografie che hanno fatto il giro del web. Qual è un momento in cui non scattarsi mai in selfie? Qual è un momento in cui non si può fare a meno del selfie? Un momento da documentare assolutamente. Io non so il tipo che si fa i selfie, quindi non saprei. Dicono tutti così e poi li vedi su Instagram. Un momento da selfie, un momento... Penso il momento più bello quando ti fai la foto con il tuo idolo cantante, band musicale preferita, fare un selfie con loro, penso sia il massimo. Bellissimo, hai ragione. Penso sia la cosa più bella del mondo. È una bella riflessione, Tanto che non mi ricordo chi disse che addirittura ormai hanno sostituito gli autografi, cioè la gente non vuole più l'autografo, vuole direttamente il selfie. Sì, perché la foto forse è proprio la traccia indelebile di quello che del contatto, no, con l'artista. Quindi selfie con l'artista, pensiamoci, bella risposta, ragazzi. Andando avanti, andando verso quella che sarà la parte finale, che noi sappiamo riservata alla notizia piccante, prima una notizia comunque di carattere naturale. C'è un grande mito, una grande leggenda metropolitana: che farsi scrocchiare le dita quante volte l'hai fatto. Scrocchiare fa tra. C'è il mito di Kenshiro ai tempi anni 90-80, che non so quante dita c'aveva. Farsi scricchiare le dita, la leggenda metropolitana fosse che faceva venire l'artrite alle articolazioni delle mani. Ebbene ragazzi, questa leggenda metropolitana è stata sfatata, ma è stata sfatata in una maniera veramente incredibile. Strano che non sia successo in Giappone, perché questo tizio Donald R. L. Hunger, lui ha fatto non solo la ricerca, ma ha fatto da cavia umana, e per ben 6 anni si è scrocchiato le dita solo da una mano. Anche in questo caso solo 6 anni? Per 6 anni si è scrocchiato le dita. Però 6 anni, cioè se sei un dottore, stai facendo una ricerca, impieghi 6 anni della tua vita a scrocchiarti le dita da una mano e non dall'altra, che immagino abbia custodito in maniera particolare. E lui ha detto: effettivamente ragazzi, non c'è nessun problema, il rumore è dovuto a delle piccole bolle di gas che si creano, diciamo, tra le articolazioni. E lui dimostra che dopo 6 anni la sua mano scrocchiata è nella stessa condizione di quella normale. E quindi un altro mito dopo la miopia. Ma così potrebbe essere anche per il conto. Per? Collo. Sì, lui dice che ormai questa cosa è da sfatare, cioè che lo scrocchiamento non incide. Ma non pensa quante volte avresti voluto, e invece no ragazzi, quante volte avreste voluto. Bollino rosso, la notizia questa è un po' piccantella e anche particolare, a proposito di grandi rimpianti. Sesso sì, ma anche nella terza età, dai 75 in poi. Un elisir di memoria e elasticità per il cervello. Una volta dormito alla mia bisnonna, 95 anni. attenzione. Ora ci arriviamo, perché uno studio olandese ha stabilito che gli anziani attivi hanno una memoria e un'attività cerebrale migliore rispetto a quelli che, diciamo, hanno appeso le scarpette al chiodo. No, i boxer al chiodo. 1700 volontari di età compresa tra i 58 e i 98 anni si sono sottoposti a questi test cognitivi. Quindi tu tra i 58 e i 98 anni vai là, digli cosa fai e cosa non fai, che cosa bella, è la scienza. E quindi anche nella terza età, comunque, certe attività il cervello continua a gradirle. Dobbiamo ancora continuare a gradirle. Ragazzi, c'è tempo, quindi scatenatevi. Voglio dire, è giusto che sia così. E tu comunque questa cosa, signora anziana, però comunque l'hai vista attiva, quindi. Wow. Ah, proprio. Eh beh, giustamente, ragazzi, è così, la vita bisogna viverla. Non è che l'età è un numero, giusto Andreina? Cioè l'età è come ci si sente dentro, e quindi è giusto che sia così. Ragazzi, ma sembra di essere giovane come loro. Ma tu sei più giovane di me, di loro, Andrea. Ragazzi, la cena dei regini, noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale. Commentate anche questo blocco, c'è anche il back.it, cliccate cena dei regini se volete guardare e sapere tutto su questa trasmissione e su come partecipare da commensale. A tra poco con la cena dei regini. So baby, won't you bring me back to you. I thought that I would. Questa puntata allietata da questo giovane artista regina che ci è venuto a trovare. Noi siamo tornati alla cena dei regini, stacchiamo quello che può dare interferenza e introduciamo a una nuova, un esperimento, perché giustamente abbiamo fatto l'inizio della strada, abbiamo fatto la classifica, abbiamo fatto in passato il gioco indovina chi suona a cena, la più grande boiata della radio italiana. Ma ragazzi, questa sera proveremo qualcosa di un po' diverso. Quante volte eri davanti a YouTube o comunque davanti a internet e ti sei chiesto cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Perché comunque questi video strani, eccetera, pazzi, le cose che non avresti mai voluto vedere nella tua vita, e noi te le proviniamo. Ma ricordandoci anche che la trasmissione è anche radiofonica, le racconteremo anche a chi è a casa. Ci proviamo. Video dal web, adesso loro li vedranno e li potranno commentare assieme a noi. Ragazzi, possiamo interrompere, adesso partiamo il video, tutti pronti, gatti al seguito. E quindi, cosa sto guardando? Di uomo con bicicletta che cade e viene deriso dalla famiglia, oppure questo ragazzo che sei in montagna e cadi in un fiume. E qua si nota quanto si è sadici in famiglia, perché uno cade in un fiume e tu neanche lo vai ad aiutare. Quanto in montagna, fiume innevato, e tu vai a lasciarlo là. Lui ci prova, fa canestro, no. Ancora montagna, neve, evoluzione fallita con lo snowboard, ma lui si esalta lo stesso. Quest'uomo sul quad che va a schiantarsi, ma il quad continua da solo, perché giustamente qua ragazzi, altro video, bambina seduta sul palloncino, ci prova, ci riprova, si accomoda, mima cose che di lì a poco avrebbe fatto anche Miley Cyrus. Questa bambina a casa cade là, che si accomoda, ops, scoppia il palloncino e lei cade a terra, e noi fa ridere perché siamo sadici, ovviamente, come sempre. Questo ragazzo passeggia per le strade di New Orleans. Sembra ubriaco. Questo è un po' ubriacato, un po' sbanda, fiero di se stesso. Sembra ubriaco. Che fa? Prova a saltare un cartello e ci riesce, attenzione. Ma quest'altro suo amico no, è vero che l'ubriaco c'è riuscito e l'amico sobrio no. Andiamo in quest'auto di questa cittadina dell'Illinois, dove un tizio si addormenta e cade a terra. E anche qui grande solidarietà da parte della gente, che nessuno aiuta. Ragazzino su bicicletta, ragazzi. Lui sfida, vai. Attento al torrente, è caduto nel torrente. Bambino in torrente, anche qui grandi soccorsi da parte di... Cosa è questo? Una donna su un uomo, il che è fantastico. Un'altra donna su un uomo, il che è fantastico, ma cadono. Cadono, ci provo. Nessuno li aiuta. Il leitmotiv è che nessuno li aiuta. Questa è una strada che crolla, ma questo potrebbe essere un qualsiasi comune italiano. Attenzione, continua a crollare. Strade che crollano. Un animale, un babbuino. Un babbuino. Cosa sta facendo? Questo sarà uno zoo di quelli che si passa in auto per visitare. E il babbuino sta smontando il tergicristallo. Ma loro ridono. Perché evidentemente la macchina era in noleggio. Non c'è altra spiegazione. Scuola americana, salta un banco e invece no, si schianta a terra. Però sarà un divo di YouTube. E poi ti capita questo: camminare e passeggiare su una strada americana così libera, ma attenzione, d'improvviso un cavallo che scivola, si schianta a terra, schianta di nuovo a terra il cavallo, cavallo che si rialza e corre via. Però le macchine si erano fermate, quindi c'è più sensibilità per i cavalli, per gli animali. Che no. Qui andiamo in Spagna, è chiaramente preparazione di una corrida. Stanno cercando di convincere il toro a morire. E quest'uomo ci riesce però non è stato incornato, cioè correndo è caduto da solo. Perché anche in questo caso l'animale supera l'uomo, ragazzini su altalena. Ragazzini su altalena. Cosa sta per succedere? E uno di loro cade rovinosamente a terra. Questo è uno su un bicimbettino che si distrugge. E qui stai passeggiando per le vie della Bucarest. E non succede assolutamente nulla. Facciamo, sorprendente. Cosa sto guardando? Questo ragazzino sta guardando la scena dei registi. Esattamente, lui è in diretta. Oh, è cantato in due. Guarda come le piace, guarda come gli piace. E si scia. Guarda, mi ha detto, ho fatto una battuta. E si è cappottato. Per i video stava lì. A sua volta sta guardando e dice: cosa sto guardando? Ragazze che puliscono a terra, una scena che a loro piace particolarmente. Scivolo. Ma una scivola e riesce a farsi male alla testa. Un headshot così. Aia. Oh, volo. Già il fatto che ci sia uno. Questo sì, infatti, ecco, ha perso un dente. Oh, bene. Perché vuoi mettere un astraio su uno skateboard e tentare di attraversare la strada? Non si sa, ma questi l'hanno fatto e adesso saranno investiti? No, sarebbe un milione di visite in più per YouTube. Questo è forza. Questo è correre su una pista col cofano aperto e quindi alla cieca. Alla cieca? Alla cieca? Alla... Eh sì, effettivamente, basta, corso alla cieca, ragazzina che tu giraffa. Alle spalle a volte ti capita di avere una giraffa che ti insegue. Un giraffo infuriato. Chissà perché. Ragazzi, la giraffa non molla, cioè guardate qua. Penso sia la cosa per... si è seguito una giraffa o qualcosa. Wow. Ma poi, la giraffa non è che ha un assetto da corsa, quindi caspita, si sta impegnando tantissimo. E la cosa bella è che il collo è lungo, quindi lo prendi in qualsiasi momento. Certo, ti va a guantare, guarda lei come è terrorizzata. E qui un cane piccolo, di quelli che piacciono. Mi sa che è rimasto fuori casa, cosa fa? Vuol dire non piace. Cosa? che sta dicendo? È un cane tedesco questo. Parla perfettamente il tedesco. È fantastico. Mi raccomando, anche voi chiudete il cane fuori casa e poi mettetelo su YouTube. Cosa sta succedendo? Chi è quest'uomo? Wow! Questo sarò io per riprendermi del leggende dei regini. E ti capita. una semplice caduta che fa la differenza, ma ancora di più quando arriva in un matrimonio e lei cade dalla sedia. E questo resterà immortalato per sempre ai loro figli. Se hai un Monster Truck, cosa vuoi fare col Monster Truck? Sfasciarlo tentando di superare un fango. Stupido guado di fango. Un palco che cade, lui che si dispera, un'iguana che scende così, è un gatto. Beh, che succede? Wow, attacco a sorpresa di un altro gatto che lo terrorizza. Uomo su una macchinetta giocattolo, ecco, a dimostrazione che quando un adulto tocca una macchina giocattolo non si fa sempre male, perché non è possibile andare a wow, donna che cavalca uno struzzo e viene subito a Final Fantasy funzionato. Ok, wow, ha cercato di fare una maca su un fiume. E il cane salta. Non ce la fa. Il video continuava altre due ore e poi il cane moriva. La liana prova. Prova della liana, lei è riuscita, lui fallito in acqua. Quanti pinocchi? Questa è la sfilata dei pinocchi e uno cavo. Sono un burattino di ferro. Però qua lo aiutano. Ma qua lo aiutano. Cosa dire di questa specialità del ciclismo? Tandem e furono così. Sono accasciati e sono rimasti. Bellissimi questi video, io sono commosso. cena@back.it, commentateli anche voi questi video, ragazzi, li avrete visti centinaia di volte online. Questo è un emulo di Baywatch, ma attenzione perché si toccava. Questo lo voglio come bagnino all'alito comunale. Cioè alle pinne, quello salvagente, e si toccava, vero? Wow, quando c'è un altalena di mezzo si cadrà rovinosamente a terra. La ragazza è nervosa. Che cos'è quello? Un terzo sconosciuto che rompe il vetro. Ragazza nervosa più sconosciuto che ti rompe il vetro così a random. Questo è un cucciolo abbastanza. Che bello, non fa niente. Sei in moto, stai viaggiando così lungo una strada sterrata. Cosa ti può capitare? Ovviamente in mezzo a nulla. Quindi già è escluso che qualcuno ti verrà a salvare, e questo ci piace. E tu puoi cadere così rovinosamente. Wow. Ah, poverello. Perché è sopra la pancia dell'uomo? Papera sul pancia dell'uomo, il che turba già vedete, la posizione della papera. E il fatto che la papera. No, che dolcezza! Papera che si addormenta e piace tantissimo. Wow! Un tuffo alternativo. Hanno fatto anche il rallenti di un tizio che cerca di tuffarsi in un lago con una bicicletta, ma cade rovinosamente rischiando la colonna vertebrale. E lui, attenzione! Nonna Metal! La nonna Metal, nonna alla batteria, e ragazzi ci sa fare, attenzione! Nonna alla batteria con tanto di stack che è brava di me. Vedi. Due ore così. Uomo che si fa. L'uomo in preda a dei cuccioli di cane che gli hanno catturato una scarpa. Mi mai già batte con i cuccioli sul disco. Nessuno lo aiuta con quattro cuccioli. Un uomo perde la sua scarpa, ma nessuno lo aiuta, nessuno glielo importa. Attenzione. Ti capiterà di essere qui nelle strade del Texas a passeggiare sulla tua auto, superato da quella, che cos'era? Una moto. Una moto, appunto. Questo cane è un volpino. Questo è un tipico volpino, però è col cosplay del commissario Rex. E quindi giustamente non si riconosce a terra e sta zampettando sulla sua auto. In casa con la bicicletta, uomo su un tavolo in casa con la bicicletta cerca di fare qualcosa di epico e finisce così, testa testa sul parquet. No. E questo è un cane. Bella samba. Ragazzi, questo è veramente, c'è, cioè, un cane che su due zampe riesce a ballare, questo è... anche a ritmo. E questo è un altro essere. È un essere umano che balla come un cane. E qui già l'accoppiata, ragazzine sexy più. Ecco. Tutti quelli in merda. Cadere sul tapirulan è sempre un must. Lui vuole sparare a quell'auto laggiù, è chiaramente un cecchino. Dell'esercito delle forchette. Vai, vai, vai che ce la fai. Vai. E boom! Ragazzi, ce l'ha fatta. Cioè, ha fatto esplodere. Ha fatto esplodere una con un detrito, che buono. Speriamo che non sia la macchina della moglie. Penso dell'ex moglie. Non farlo a casa. Se vuoi saltare una staccionata, non farlo in quella maniera. Già la presenza di un'altalena prevede di una palla da basket. Già l'altalena prevede un rischio per la colonna vertebrale. Con la palla da basket siamo veramente arrivati. Una caduta, ragazzi, Miss Thailandia arriva così volando sul palco, una caduta rovinosa, ma lei ragazzi non molla, con una scarpa continua a sfilare perché arriva così. Cosa stiamo guardando? Cos'è questo? Una perfetta imitazione di una faccia. Questa è una faccia, ma cos'è? Cioè, cos'è? Una faccia? Lardosa. Faccia lardosa, perché è disegnata su un pancione. Danzante. Cos'è? Questo è un tizio ubriaco che cade dalle scale, e quindi finiscono i video, ragazzi. Quale è il video che vi è rimasto più impresso? Li rimettiamo in sottofondo così ci possiamo scatenare. Cosa abbiamo imparato da questi video? Io nel mondo ci sono comunque un sacco di idioti. E hanno tutti una telecamera. E nessuno aiuta l'altro, soprattutto. Ma io sono artista. Ragazzi, se anche tu hai una telecamera e vuoi sfondare nel mondo di YouTube, appunto, puoi fare qualche cosa di criminale, perverso, e riprenderlo e non aiutare chi ti sta vicino. Questo è il senso di tutte le cose, perché comunque... dalle cadute di snowboard, dalle varie cadute criminali che ci sono state, nessun aiuto da parte di nessuno. Abbiamo visto più gli animali soccorsi che non gli esseri umani. Perché preferiscono eliminare tutti gli eventi? Perché si vive nella continua eliminazione, nella, come si dice, il filtrare la specie tramite queste cose. Perché perdere tempo se si rimane? Giustamente, perché ormai fa visualizzazioni su YouTube, che non è male, ragazzi. Noi abbiamo concluso per questa settimana la cena dei regini. Commentate anche questo blocco. Cosa avete visto voi? Cosa volete che commentiamo la prossima settimana? Altri video, altre cose da vedere. Torneremo tra una settimana con la cena dei regini. Un applauso a noi. Ciao, grazie. E dai ragazzi, la giornata dei regini, la settimana prossima, ciao. Stacca, stacca, stacca. Stacca, stacca, stacca.